Torre, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Il Tribunale di Trieste ha disposto il pignoramento di un castello di proprietà dell'imprenditore austriaco che dovrebbe trasformare l'ex fiera di Trieste in un centro commerciale. L'avvocato ha per ora però fatto ricorso, congelando così il provvedimento. Superano la prova della mareggiata le nuove paratie installate dal comune di Muggia. Hanno contenuto l'alta marea di questa mattina, soprattutto nella zona del Mandracchio, Agrado e Lignano. Disagi contenuti. La Federazione dei Medici di Medicina Generale minaccia le dimissioni in blocco contro la riforma della professione che prevede la dipendenza dei professionisti dal servizio sanitario pubblico. Alle 11:15 dell'8 febbraio tutte le campane di Gorizia suoneranno insieme, mentre un corteo con 1.500 partecipanti passerà da una parte all'altra del confine, il programma di avvio della capitale europea della cultura. In corso nel Palazzo della Regione a Trieste il Recruiting Day, organizzato da un'azienda della grande distribuzione organizzata. Si cercano 40 persone per un supermercato di prossima apertura, 260 candidati ai colloqui. Una startup di Udine aiuta argentini, brasiliani e venezuelani discendenti dei nostri corregionali a venire in regione a lavorare. Le aziende locali offrono in questo momento 150 posti, arrivate 1.500 candidature. Ieri sera incontro pubblico a Porcia sui lavori lungo la Pontebana per realizzare la grande rotonda del Garage Venezia. Partiranno a fine febbraio i lavori e dureranno 6 mesi. Inevitabili disagi. Le 12:34, ancora buongiorno da Alessandra Zigaina e Maria Spezia. L'imprenditore austriaco Walter Mosser, destinatario di un pignoramento disposto dal Tribunale di Trieste per il mancato sviluppo del centro commerciale di Tavagnacco, ha per ora congelato il provvedimento presentando ricorso. Mosser è anche il proprietario dell'area dell'ex fiera di Trieste, il cui rilancio è fermo da anni. 2 milioni e poco più è il valore del pignoramento attuato sui beni di Walter Mosser, imprenditore immobiliare austriaco e titolare della Mid Holding, la società con cui segue i progetti di riqualificazione dell'ex fiera di Trieste a Montebello e del centro commerciale Friuli a Tavagnacco, noto come ex Berlusconi. La misura giudiziaria, come riportato dal giornale online austriaco Kleine Zeitung, è legata proprio a quest'ultimo progetto. Di fronte ai ritardi della riqualificazione, l'operazione era stata annunciata dal 2019, la finanziaria regionale Friuli Venezia Giulia, che partecipava con una quota di sostegno alla società di Mosser, ha chiesto di essere liquidata, anche a fronte del fatto che, così si legge sulle carte, non ci si era nemmeno avvicinati alla realizzazione del progetto. L'imprenditore non ha provveduto al pagamento e si è passati alle vie legali con la pronuncia del Tribunale di Trieste, che ha disposto il pignoramento del castello di Seltenheim, la proprietà in Carinzia dove abita Mosser. Un aspetto che, di fronte ai ritardi dei lavori sia a Udine che a Trieste, operazioni rispettivamente di 30 e di 20 milioni, ha sollevato il timore che l'imprenditore non disponesse di liquidità. Timore smentito però da Armin Hamacek, il referente di Mosser in Italia. L'imprenditore, spiega Hamacek, non ha problemi finanziari, ma non ha voluto liquidare la finanziaria perché non si riteneva responsabile dei ritardi, dovuti piuttosto a ostacoli di tipo burocratico. Per questo ha fatto anche ricorso contro il pignoramento e la prima udienza è prevista il 27 febbraio. Resta da capire se ha fondamento invece l'informazione trapelata, secondo cui lo stesso Mosser intenderebbe lasciare Trieste, cedendo le sue quote del progetto di Montebello ad altri imprenditori. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. A Muggia la prima prova di uso delle paratie di protezione ha permesso di contenere la marea, soprattutto nel punto più basso del Mandracchio, dove l'acqua, senza la presenza delle barriere, questa notte avrebbe invaso la carreggiata. Più contenuti i problemi a Lignano. A Qualta, Agrado e a Muggia sul Mandracchio, mentre a Lignano il picco di marea è passato, ma l'acqua continua a salire. A Agrado le sirene hanno cominciato a suonare poco prima delle 8:30 e dalle 10:30 la marea sta lentamente calando. A Muggia la Qualta è stata l'occasione per la prima vera sperimentazione del cosiddetto mini MOSE, le paratie mobili per trattenere le mareggiate. Le paratie, come previsto, sono state installate ieri sera dalla Protezione Civile affiancata dalla Polizia Locale. Le operazioni hanno richiesto circa 45 minuti. Al mattino il sindaco Paolo Polidori, l'assessore De Santis, la Protezione Civile e la Polizia Locale si sono ritrovati sul posto per verificarne il funzionamento. Anche se il picco della marea non è stato particolarmente elevato, la sperimentazione può dirsi riuscita. Senza le paratie, infatti, nel punto più basso l'acqua avrebbe invaso la carreggiata, provocando disagi alla circolazione se non addirittura la chiusura della strada. A controllare l'efficacia delle paratie anche diversi curiosi. Verso le 9:30 è iniziato lo smontaggio. Per quanto riguarda infine Lignano, sentiamo Giorgio Ardito, presidente di Lignano Pineta. Com'è la situazione dell'alta marea qui a Lignano Pineta? Beh, una mareggiata di scirocco che è partita già da ieri sera verso le 6, le 7, che durerà fino a tutta questa sera. Il picco di marea è passato, però l'acqua sta salendo lo stesso. Le mareggiate di scirocco sono quelle più terribili per la spiaggia, sono quelle che creano maggiore erosione. Quest'anno c'è anche una nuova soluzione per tentare di arginare l'alta marea? Sì, sempre con la direzione ambiente della regione. Quest'anno abbiamo sperimentato una duna di sabbia, dai sacconi ai geotubi. Quest'anno siamo arrivati a una soluzione più naturale e speriamo che quello che abbiamo messo in cascina e quello che dai ripascimenti in programma per entro metà aprile per la stagione estiva 2025 possano insomma sopperire ai danni che sta facendo questa mareggiata. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. La Federazione dei Medici di Medicina Generale, primo sindacato a livello nazionale della categoria, si dice pronta alla lotta contro la riforma della professione che prevede la dipendenza dei professionisti dal servizio sanitario pubblico. Tra le iniziative si ipotizzano anche le dimissioni in blocco. Nella mozione che apre le ostilità, il primo sindacato dei medici di famiglia a livello nazionale ribadisce la sua ferma opposizione alla riforma che vuole rendere i professionisti lavoratori dipendenti. Non solo non risolverebbe i reali problemi del sistema sanitario territoriale, ma sottrarrebbe ai cittadini nel loro ambiente di vita l'unica figura di riferimento fiduciaria esistente nell'assetto sociosanitario attuale, sottolinea la FIMGE nel documento approvato all'unanimità dall'ultimo Consiglio nazionale di sabato scorso a Roma. Il sindacato si dichiara pronto alla lotta se non si farà marcia indietro e si procederà con una riforma condivisa. Si sono dati tempo 10 giorni in attesa di capire l'esito delle interlocuzioni avviate coi decisori politici, dando mandato al segretario nazionale Silvestro Scotti, alla scadenza, in assenza di risposte, di intraprendere iniziative di protesta anche non convenzionali. Se non saremo ascoltati si prospettano dimissioni in massa, dichiara il segretario regionale della FIMGE Fernando Agrusti, che segnala irritazione e preoccupazione crescenti nella categoria. In regione potrebbero lasciare 181 medici di famiglia che hanno maturato i requisiti per la pensione. In tutta Italia sono 12.000, aggiunge. Per Agrusti sbaglia chi pensa che le carenze di medici si possano colmare con il posto fisso ai medici di famiglia. La drammatica carenza di camici bianchi anche nel servizio sanitario pubblico lo dimostra, sottolinea il segretario della FIMGE. Agrusti intanto respinge al mittente gli attacchi alla categoria coi numeri sulla mole di attività degli studi medici di famiglia in Italia stilati dall'Università Bocconi. Un solo medico ha tra gli 80 e i 100 contatti quotidiani che, se moltiplicati per i circa 40.000 medici di famiglia operativi in Italia, diventano 4 milioni di contatti al giorno, 750 milioni in un anno. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. 12:41, passiamo al meteo. Il cielo è da nuvoloso coperto sulla regione. Queste le temperature registrate alle 11 a Trieste, Udine 13 gradi, a Pordenone 14, a Gorizia 13 gradi e 5 decimi, in area montana Tolmezzo 10, Tarvisio 8 gradi, Sappada 4, a Piancavallo 6 gradi e Forni di Sopra 6 gradi e 5 decimi, in quota su Monte Lussari 3 gradi e mezzo, su Monte Zoncolan 2 gradi e mezzo, sulla costa Lignano e Grado 13 gradi. Le previsioni: oggi pomeriggio avremo cielo coperto sulla costa, piogge intermittenti ma anche qualche schiarita e vento di scirocco da sostenuto a forte con mareggiate tra Lignano e Grado. In pianura piogge abbondanti o intense e vento da sud sostenuto. Sulla zona montana precipitazioni intense, molto intense sulle Prealpi Giulie, con quota neve oltre i 1800 metri circa, a 1400 metri sulle zone interne, specie verso il Cadore. Venti forti da sud-ovest in quota. In giornata possibili temporali e quota neve in progressivo calo nel pomeriggio sera fino a 800-1000 metri circa. A Gorizia, in vista dell'imminente avvio del calendario eventi abbinato alla capitale europea della cultura, si è fatto il punto sui lavori in piazza Transalpina. È tutto pronto per l'inaugurazione dell'8 febbraio di Go 2025. Dita incrociate affinché il tempo sia favorevole in una giornata lunga e svolta tutta all'aperto. Oltre 12 ore di festa per dare avvio alla prima capitale europea della cultura transfrontaliera si comincerà alle 10 di mattina dalla stazione di Gorizia. Avrà inizio un corteo transfrontaliero con 1500 partecipanti. Alle 11.15 suoneranno insieme le campane di tutte le chiese goriziane, i discorsi dei sindaci e l'avvio degli spettacoli in Piazza Vittoria, performance che andranno avanti per tutta la giornata fino a tarda notte nella principale piazza della città. Nel pomeriggio alle 16 la parte istituzionale della cerimonia in una piazza transalpina che nei prossimi giorni tornerà a disposizione della cittadinanza dopo i lavori di rifacimento. Presenti tra gli altri il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella e il Vice Presidente della Commissione Europea Raffaele Fitto. Dati gli spazi ridotti, la cerimonia della Transalpina sarà aperta solo agli invitati e proiettata con maxischermi a Gorizia e Nova Gorizia, mentre tutti potranno accedere a Piazza Cardeglia davanti al municipio di Nova Gorizia per la parte artistica della cerimonia inaugurale alle 18, una parte che si preannuncia spettacolare. La festa proseguirà fino a serata inoltrata in più luoghi. Alle 20.30 in Transalpina, DJ7 con Daddy G, The Massive Attack, Andy Smith e Portishead. In Piazza Vittoria, animazione e musica proseguiranno anche domenica 9 febbraio. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Sono circa 260 le persone che oggi stanno sostenendo colloqui per un posto di lavoro nella cornice del Recruiting Day organizzato dalla Regione. Gli incontri in programma nel Palazzo della Regione di Piazza Unità a Trieste sono condotti da un'azienda della grande distribuzione che cerca 40 persone per un supermercato di prossima apertura nel capoluogo regionale, oltre che per altri negozi cittadini e per le necessità stagionali dell'estate. A Udine una start-up e un'agenzia per il lavoro si sono specializzate per aiutare a trasferirsi in regione i figli e i nipoti di corregionali che sono emigrati in Sud America. Il richiamo delle radici, ripercorrere a ritroso l'emigrazione di milioni di friulani e giuliani in Sud America. Oggi alcuni dei loro discendenti stanno ritornando alla ricerca di migliori condizioni di vita proprio qui da noi. L'iniziativa nasce da una sinergia tra due realtà, MAV, che incrocia domanda e offerta di lavoro tra le aziende del territorio e gli oriundi del Sud America desiderosi di tornare, e una startup di Udine, Back to Italy, che fornisce a questi ultimi assistenza nelle pratiche di riconoscimento della cittadinanza e nel reperimento di un primo alloggio in regione. Paolo Bellotto, responsabile area nord-est di MAV. Qui in Friuli Venezia Giulia le esigenze di lavoro sono soprattutto legate al settore manifatturiero, in particolare alla gomma plastica, al metalmeccanico e ovviamente al legno arredo. Abbiamo ricevuto ultimamente anche richieste legate al settore del turismo e dei multiservizi. Si tratta di circa 150 figure professionali richieste. Abbiamo nell'ultimo mese e mezzo raccolto 1500 candidature. Il target di questo richiamo in patria sono in particolare gli oriundi dell'Argentina, ma non solo. Gerardo Sine, amministratore delegato di Back to Italy. Anche il Brasile e il Venezuela, poiché sono paesi con un forte tasso di italiani all'estero, e in questo momento questi paesi vivono una situazione economica e sociale complessa che rende la vita quotidiana molto difficile e con poche prospettive future. Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Ieri sera si è tenuto un incontro pubblico sui lavori lungo la Ponte Bana per la realizzazione della grande rotonda del Garage Venezia. Partiranno a fine febbraio e le chiusure stradali dureranno 6 mesi. I disagi saranno inevitabili, ha spiegato il sindaco di Porcia, ma la chiusura consentirà di concludere l'80% dei lavori. Slittano al momento a fine febbraio le chiusure stradali legate al grande cantiere per la realizzazione della rotonda lungo la Ponte Bana all'altezza del Garage Venezia. L'interdizione riguarderà Viale Grigoletti, Via Gabelli e l'innesto su quest'ultima dalla strada statale 13 per una durata di circa 6 mesi. Ieri sera Porcia un incontro pubblico per informare la cittadinanza sulle fasi dell'intervento e i relativi disagi, specie per i residenti e un'ottantina di attività commerciali e produttive maggiormente interessate dal cantiere. Il sindaco di Porcia, Marco Sartini. Abbiamo cercato nell'organizzazione del cantiere di dare delle risposte in modo che nessuno si senta troppo disagiato rispetto ai lavori. Abbiamo inviato in queste settimane 300 lettere ai residenti e alle attività commerciali e industriali per informarli. Cercheremo di tenerli aggiornati. In questo momento, vista anche la situazione del tempo che sta frenando l'andamento del cantiere, siamo orientati a dire che la chiusura delle tre strade, Viale Grigoletti, Via Gabelli e l'innesto su Via Gabelli della strada statale, avverrà tra il 24 e il 28 febbraio. La chiusura delle tre vie in un'unica soluzione e non a settori, come inizialmente ipotizzato, è stata concordata con le polizie locali, spiega ancora Sartini, scelta ritenuta la più funzionale, dice, e che consentirà di concludere l'80% dei lavori. La direttrice Sacile Udine, invece, resterà sempre aperta. Attualmente sono in corso le operazioni preliminari, lo spostamento del grande cartello pubblicitario, cui seguirà la demolizione dell'immobile espropriato e l'interramento del canale, quindi si procederà con il blocco stradale e la realizzazione vera e propria della rotonda. Porcia, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia. Stamattina da Qualeia sono stati presentati sia il bilancio dell'attività dello scorso anno, sia i progetti per l'anno in corso da parte della Fondazione Aquileia e della Direzione Regionale Musei in relazione al sito Patrimonio dell'UNESCO. Nuove acquisizioni di aree, investimenti in opere pubbliche, sinergia con Go2025, progetti europei, ma soprattutto un'offerta culturale che intercetta un cambiamento nelle abitudini dei turisti. Punta decisa ai mesi primaverili ed autunnali, Aquileia. Aprile è stato nel 2023 il mese di maggior afflusso e per la prima volta si registra una leggera contrazione nei mesi più caldi, a conferma del fatto che la temperatura dei mesi estivi inizia a modificare le abitudini dei viaggiatori. Nel complesso, nel 2024, più 2% di accessi registrati ai luoghi della cultura rispetto al 2023, anno che già aveva fatto segnare un più 10% di arrivi e presenze in confronto con il 2022. Quasi 265.000 biglietti emessi e 477.000 passaggi registrati dai portali d'ingresso libero, numeri condivisi con i media nella conferenza stampa congiunta di Regione, Comune e Fondazione Aquileia, Museo Archeologico e Basilica. Tra gli interventi degli ultimi anni, l'illuminazione delle aree per le visite serali e l'apertura dei nuovi depositi al museo. Prioritaria nel 2025 sarà la salvaguardia del sito UNESCO con la richiesta di ampliamento della zona cuscinetto a protezione dell'integrità del sito. Nel frattempo ho completato una serie di acquisizioni per un totale di 18 ettari, quasi raddoppiata l'estensione delle aree archeologiche, e ancora 6 progetti europei per un totale di quasi 1 milione di euro per attività che spaziano dal 3D alla musica. In primavera aprirà il nuovo InfoPoint con servizio di biglietteria e verrà lanciata una nuova app. Nell'anno del giubileo e di Go2025, ad aprile, i cammini saranno al centro di un nuovo festival diffuso sul territorio che coinvolgerà anche le aziende. Tra open day dei cantieri di scavo, aperture straordinarie, concerti in basilica ed eventi per i 50 anni della Pimpa, l'invito è a consultare il calendario sul sito discoveraquileia.com, condiviso e sincronizzato con la piattaforma digitale transfrontaliera Go2025 Borderless Wireless. Aquileia, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il sistema impiantistico friulano per la gestione dei rifiuti organici e la loro trasformazione in compost è il migliore d'Italia, secondo quanto rivela uno studio realizzato dal Dipartimento di Ingegneria Civile e Informatica dell'Università di Roma Tor Vergata, che è stato commissionato dal Consorzio Nazionale per il Riciclo Organico delle Bioplastiche Compostabili. L'analisi dell'Ateneo Romano si è incentrata sulla qualità del servizio dei 112 principali impianti italiani, in cui viene trattato il 96% di tutti i rifiuti organici, pari a 4,8 milioni di tonnellate. L'Università di Udine sta conducendo una ricerca che sfrutta le proprietà antiossidanti di alcune piante alpine, come l'artemisia e la salvia muscatella, per rallentare lo sviluppo dell'irrancidimento negli alimenti. L'iniziativa, in collaborazione con gli Atenei di Bolzano e Salisburgo, studia 31 piante raccolte tra Italia e Austria, di cui 9 in Friuli Venezia Giulia, come fonti di composti benefici per la salute e ad alta potenzialità di sfruttamento economico. Il progetto biennale è finanziato dall'Unione Europea con 757.000 euro, di cui 173.000 all'Ateneo Friulano, nell'ambito del programma Interreg Italia-Austria di cooperazione transfrontaliera.